viaggi brevi, nausea. Non riuscivo neanche a tentare di capirci qualcosa. Occhio gonfio d'aria. Mi risultava difficile aggrapparmi alla strada. Spirito del mondo. Spirito del mondo. Pausa. Spirito del mondo. Pausa. Sensi. Sensi. Viaggi brevi, nausea. Sensi. Non riuscivo neanche a tentare di capirci qualcosa. Gonfio d'aria. Mi risultava difficile aggrapparmi alla strada. Spirito del mondo. Pausa. E le tue immagini migliori diventano specchi angolari. Tu perdi, ti trovi e ricominci tutto da capo. Le tue immagini migliori diventano specchi angolari. Ti perdi, ti trovi e ricominci tutto da capo. E le tue immagini migliori diventano specchi angolari. Ti perdi, ti trovi e ricominci tutto da capo. Le tue immagini migliori diventano specchi angolari. Viaggi brevi, nausea. Non riuscivo neanche a tentare di capirci qualcosa. Occhio gonfio d'aria. Mi risultava difficile aggrapparmi alla strada. Spirito del mondo. Spirito del mondo. Pausa.